Capitolo 9. Il ballo di Daisy. La signora Shakespeare Smith ha l'onore di invitare i signori John Brooks, Thomas Banks e Nathaniel Blake al suo ballo che avrà luogo oggi alle 3 pomeridiane. P.S. Nat porti il suo violino perché possiamo ballare e tutti i ragazzi badino di comportarsi bene, altrimenti non avranno niente delle buone cose che abbiamo cucinate. Sono portato a credere che questo elegante invito sarebbe stato declinato senza l'accenno del poscritto. «Hanno preparato una quantità di roba buona, ho sentito l'odore, andiamoci!» disse Tommy. «Va bene, ma non è mica necessario che ci tratteniamo dopo il banchetto», osservò Demi. «Non sono mai stato a un ballo, che cosa bisogna fare?» chiese Nat. «Oh, basta far finta di essere uomini e star seduti tutti in giro, impalati e stupidi, come le persone grandi». E ballare per contentare le ragazze. Poi sparecchieremo tutto e ce la batteremo il più presto possibile. Mi pare che di questo sarò capace anch'io, disse Nat, dopo aver meditato un minuto sulla spiegazione di Tommy. Allora scrivo che accettiamo. Ed Amy spedì la seguente compita risposta. Verremo tutti, per favore, che ci sia molto da mangiare. Cavalier John Brooke. Le signore erano ansiose per questo loro primo ballo, perché se tutto fosse andato bene intendevano offrire poi un pranzo ad alcuni eletti. La zia Jo è contenta che i ragazzi giochino con noi, se non sono sgarbati. Dobbiamo quindi fare in modo che prendano gusto ai nostri balli e imparino le buone maniere, disse Daisy, con la sua arietta materna, mentre preparava la tavola e sorvegliava ansiosamente la provvista dei rinfreschi. «Demi e Nat staranno buoni, ma Tommy ne combinerà qualcuna, questo è certo», rispose Nan, scuotendo il capo sul cestino nel quale stava disponendo le focaccette. «Allora lo rimanderò dritto filato a casa», disse Daisy energicamente. «E io non lo inviterò più». «Questo sì, gli rincrescerebbe di non venire al nostro grande pranzo, vero?» «Certo, ci saranno delle meraviglie mai viste». Una vera minestra con ramaiolo e la zuppiera, un uccelletto come tacchino e sugo e ogni specie di legumi, disse Daisy, che chissà perché sbagliava sempre quella parola e aveva rinunziato a pronunciarla esattamente. Sono quasi le 3, è tempo di vestirci, disse Nan, che si era combinata un meraviglioso costume per l'occasione e non vedeva l'ora di indossarlo. Io sono la madre, quindi non dovrò sfoggiare troppa eleganza, disse Daisy, mettendosi una cuffietta da notte abbellita da un fiocco rosso, una sottana lunga della zia e uno scialle. Un paio di occhiali e un grande fazzoletto completarono la sua toeletta, trasformandola in una piccola matrona rosea e paffuta. Nan portava una ghirlandetta di fiori artificiali, un paio di vecchie pantofole rosa, una sciarpa gialla, una sottana di mussolina verde e un ventaglio fatto con le penne di un piumino da polvere. Inoltre, come ultimo tocco di eleganza, teneva in mano una boccetta da profumo vuota. «Io sono la figlia e devo farmi bella, e cantare, e ballare, e chiacchierare. Le mamme non devono far altro che prendere il tè e stare molto contegnose, capisci?» Un forte colpo improvviso alla porta fece volare la signorina Smith in una poltrona, dove cominciò a sventolarsi violentemente, mentre sua madre si sedeva impalata sul divano cercando di assumere un'aria calma e contegnosa. La piccola Bess, che era venuta a fare una visita, si trasformò in cameriera e aprì la porta dicendo con un sorriso «Si accomodino, signori, è tutto pronto!» Per l'occasione i ragazzi portavano alti solini di carta, cappelli a cilindro e guanti di tutti i colori e di tutti i generi, perché erano l'ultimo dei loro pensieri e nessuno ne possedeva un paio in buono stato. «Buongiorno, signore», disse Demi con una voce di basso profondo, così difficile da mantenere che era ridotto a usare frasi brevissime. Gran strette di mano e poi tutti si sedettero ed erano tanto buffi e tanto seri che i signori dimenticarono la buona creanza e scoppiarono a ridere dimenandosi sulle sedie. «Oh no, non fate così!» gridò la signora Smith disperata. «Se vi comportate in questo modo non tornerete più!» aggiunse la signorina Smith picchiando con la boccetta dei sali sulla testa del signor Banks che rideva più forte degli altri. «Non posso farne a meno, sembri una furia!» disse egli ansimante con la più scortese sincerità. «E tu allora? Ma io non sono tanto maleducata da dirtelo. Lui non verrà al pranzo, vero Daisy?» chiese Nan indignata. «Credo che ora sarebbe meglio ballare. Ha portato il violino, signore?» domandò la signora Smith, cercando di conservare la sua cortese compostezza. «È lì fuori dalla porta», rispose Nat, andando a prenderlo. «Meglio cominciare col tè», propose quello sfacciato di Tommy, strizzando palesemente l'occhio a Demi per ricordargli che quanto più presto fosse servito il rinfresco, tanto più presto potrebbero svignarsela. «No, noi non cominciamo mai mangiando, e se non ballate bene non avrete nulla, neppure un boccone, signore», dichiarò la signora Smith con aria così seria che i suoi ospiti capirono che non c'era da scherzare con lei e divennero subito di una eccessiva cortesia. «Io prenderò come cavaliere il signor Banks e gli insegnerò la polca perché la balla malissimo», disse la padrona di casa con uno sguardo di rimprovero che calmò subito Tommy. Nat cominciò a suonare e il ballo si aprì con due coppie che eseguirono coscienziosamente una danza assai fantastica. Le dame ballavano bene perché la danza piaceva loro, ma i cavalieri lo facevano per motivi egoistici. Ognuno sapeva di doversi guadagnare la cena e ci dava dentro coraggiosamente a tale scopo. Quando tutti furono senza fiato, ebbero il permesso di riposarsi e ce n'era davvero bisogno per la povera signora Smith che aveva inciampato innumerevoli volte nel suo vestito lungo. La piccola cameriera portò attorno delle tazzine piene di acqua e sciroppo, così piccole che uno degli ospiti ne vuotò addirittura 9. Non voglio dire il suo nome perché quella innocua bibita ebbe un tale effetto su di lui che alla nona si cacciò in bocca anche la tazza, a rischio di soffocare sotto gli occhi di tutti. «Ora devi chiedere a Nan di suonare e di cantare qualcosa», disse Daisy a suo fratello che stava seduto con l'aria di un barbagianni osservando gravemente la gaia scena di fra le punte del suo alto colletto. «Ci canti qualcosa, via, signorina», disse l'obbediente ospite, cercando di indovinare dove fosse il piano. La signorina si avvicinò a un vecchio scrittoio, ne abbassò la parte superiore e, seduta davanti a esso, accompagnandosi con tale vigore da far scricchiolare il vecchio mobile, cantò l'antica e deliziosa canzoncina. «Ritorna il trovatore felice dalla guerra, suonando la viola saluta la sua terra». I signori applaudirono con tanto entusiasmo che essa li gratificò di altre gemme musicali, finché dovettero farle capire che ne avevano abbastanza. Riconoscente per gli elogi tributati a sua figlia, la signora Smith annunziò benignamente: «E ora possiamo prendere il tè. State composti e tenete le mani a casa». Era bello vedere con quale aria d'orgoglio la buona signora faceva gli onori della sua tavola e con quanta calma fece fronte ai piccoli inconvenienti che non mancarono. La migliore delle sue torte schizzò sul pavimento mentre tentava di tagliarla con un coltello non affilato. Il pane e il burro sparivano con una rapidità fatta apposta per ridurre alla disperazione una padrona di casa. E quel che è peggio, bisognò bere la crema alla portoghese invece di mangiarla elegantemente coi bei cucchiaini nuovi. Mi rincresce dover riferire che la signorina Smith leticò con la cameriera per la miglior ciambella, in conseguenza di che Bess buttò per aria il vassoio e scoppiò in lacrime sotto una pioggia di dolci. Per confortarla, le permisero di sedere a tavola e le dettero da vuotare la zuccheriera. Ma durante questo burrascoso incidente scomparve misteriosamente un piatto di pasticcini e non fu possibile ritrovarlo. Ora, essi formavano la parte migliore del festino e la signora Smith si sdegnò molto perché li aveva fatti proprio lei ed erano assai decorativi. Io domando un po' a qualunque signora se non è vero peccato avere una dozzina di deliziosi pasticcini fatti con farina, sale, acqua e un grosso chicco d'uva passa nel mezzo, il tutto cosparso di molto zucchero, e vederli spazzar via tutti in una volta. «Sei stato tu a nasconderli, Tommy, ne sono sicura», gridò l'oltraggiata padrona di casa minacciando l'ospite sospetto col boccale del latte. «Non sono stato io». «Sei stato tu!» «Non sta bene contraddire», disse Nan, che durante la discussione stava liquidando in fretta la marmellata. «Tirali fuori, Demi», disse Tommy. «Non raccontar frottole, te li sei messi in tasca tu», gridò Demi, risentendosi per la falsità dell'accusa. «Portiamoglieli via, è una cattiveria far piangere Daisy», suggerì Nat, che trovava il suo primo ballo più emozionante di quanto si fosse aspettato. Daisy infatti piangeva e Bess, da brava serva devota, mescolava le sue lacrime a quelle della padrona, mentre Nan qualificava tutti i ragazzi una razza pestifera. Frattanto la lotta infieriva fra i signori, perché quando i due campioni dell'innocenza piombarono sul colpevole, questi si trincerò dietro a una tavola, bombardandoli coi pasticcini rubati che si dimostrarono ottimi proiettili, essendo duri quasi come palle. Finché bastarono le munizioni, l'assediato resistette. Ma quando l'ultimo pasticcino volò al di sopra del parapetto, il forfante fu afferrato, trascinato, strepitante fuori della stanza e buttato ignominiosamente come un sacco sul pavimento dell'ingresso. I vincitori rientrarono imbaldanziti e mentre Demi consolava la povera signora Smith, Nat e Nan raccolsero i pasticcini sparsi per terra, rimettendo ogni chicco d'uva al suo posto e disponendoli in bell'ordine nel piatto, che riacquistò quasi l'aspetto primitivo. Ma la loro gioia era svanita perché lo zucchero se n'era andato e nessuno più voleva mangiarli dopo l'insulto che avevano patito. «Credo che faremo meglio ad andarcene», disse a un tratto Demi, sentendo la voce della zia Jo su per le scale. «Forse sì», approvò Nat, lasciando cadere in fretta un pasticcetto smarrito che aveva raccolto. Ma prima che la ritirata potesse effettuarsi, la signora Jo era comparsa. E le giovani damigelle confidavano al suo orecchio simpatizzante la storia delle loro sventure. Nessun ballo più per questi ragazzi, finché non abbiano espiato questa loro cattiva condotta con qualche atto cortese verso di voi. Sentenziò Mamma Jo, scuotendo il capo e guardando severamente i tre colpevoli. Ma noi si voleva soltanto scherzare, cominciò Demi. Non mi piacciono gli scherzi che fanno dispiacere agli altri. Mi hai dato una grossa delusione, Demi, perché non avrei mai creduto che tu volessi fare dei dispetti a Daisy, che è per te una così buona sorellina. Tom dice che i ragazzi fanno sempre disperare le loro sorelle, mormorò Demi. Non voglio assolutamente che i miei ragazzi lo facciano, e se non siete capaci di giocare insieme d'amore e d'accordo, io dovrò rimandare Daisy a casa, disse molto seriamente la zia Jo. A questa tremenda minaccia, Demi sgusciò accanto alla sorella e Daisy si affrettò ad asciugarsi le lacrime perché essere separati era la peggiore delle sventure per i due gemelli. Anche Nat è stato cattivo e il peggiore di tutti è stato Tommy, osservò Nan, temendo che i due colpevoli sfuggissero al castigo che meritavano. Oh, sono tanto spiacente, disse Nat, che si vergognava davvero. E io per nulla, strillò Tommy attraverso il buco della chiave di dove stava ascoltando. Mamma Jo aveva una gran voglia di ridere, ma riuscì a mantenersi seria e disse in tono energico, indicando col dito la porta. Andate pure, ragazzi, ma ricordatevi che non dovete giocare né parlare con le bambine finché non ve ne darò il permesso. Non lo meritate e io ve lo proibisco. I giovincelli maleducati si ritirarono in fretta e furono ricevuti all'uscio dallo scherno e dalle beffe dell'impenitente Banks, che rifiutò di unirsi a loro per almeno 15 minuti. Daisy si consolò presto dell'insuccesso del suo ballo, ma era afflitta per l'editto che la separava da suo fratello e nel suo tenero cuoricino soffriva della mortificazione inflittagli. Nan invece se la godeva e continuava ad arricciare il nasetto davanti ai tre colpevoli e specialmente a Tommy, che fingeva di infischiarsene, proclamando a gran voce la sua soddisfazione per essere liberato da quelle stupide ragazze. Ma in fondo all'anima si era subito pentito dell'atto sconsiderato cui doveva il bando da una compagnia che gli piaceva e ogni ora di separazione gli provava quanto valore avessero per lui le stupide ragazze. Gli altri si arresero prestissimo, desiderando ardentemente di fare la pace, perché ora non c'era più Daisy con le sue cure affettuose e la sua cucina. Niente Nan per divertirli e medicarli, e peggio ancora niente Mamma Jo a rendere la casa piacevole e la vita facile. Con loro gran dolore, ella sembrava considerarsi una delle ragazzine offese, perché rivolgeva appena la parola ai proscritti. Pareva non li vedesse neppure quando le passavano accanto, ed era sempre troppo occupata per badare alle loro richieste. Questo completo ed improvviso sfavore gettava un velo di tristezza sulle anime loro, perché abbandonati da Mamma Baer, provavano l'impressione di aggirarsi sperduti nelle tenebre. Tale inverosimile stato di cose durò esattamente 3 giorni. Poi, non potendone più e temendo che l'eclisse del loro sole potesse divenire totale, si rivolsero per consiglio e aiuto a papà Baer. Io ho ragione di credere che egli avesse ricevuto le sue istruzioni circa quello che doveva fare qualora gli fosse stato esposto il caso. Ma nessuno lo sospettò, ed egli dette agli sconfortati ragazzi qualche consiglio che essi accettarono pieni di gratitudine e misero in pratica nel modo seguente. Isolandosi in soffitta, dedicarono parecchie delle ore libere alla confezione di macchine misteriose richiedenti tanta pasta da incollare che Asia brontolava e le bambine erano tremendamente incuriosite. Per poco Nan non rimase col nasetto preso dentro la porta mentre cercava di spiare che cosa stesse succedendo e Daisy deplorava apertamente che non potessero giocare tutti insieme d'amore e d'accordo senza tanti segreti. Il mercoledì pomeriggio, approfittando del tempo buono e dopo molte consultazioni circa il vento e le condizioni atmosferiche, Nat e Tommy sbucarono fuori con un immenso pacco piatto ravvolto in molti giornali. Nan corse il rischio di morire per la curiosità insoddisfatta, mentre Daisy piangeva quasi per la stizza, e tutte e due vibrarono d'emozione, vedendo Demi entrare nella stanza di mamma Bayer col cappello in mano e sentendolo dire col miglior garbo possibile a un ragazzo della sua età: «Per favore, zia Jo, vorresti venire insieme con le ragazze a un trattenimento dove vi abbiamo preparato una sorpresa? Vieni, sarà una cosa proprio bella!» «Grazie, verremo volentieri, ma dovrò prendere Ted con me», rispose mamma Bayer con un sorriso che rallegrò Demi come un arcobaleno dopo la pioggia. «Ci farà tanto piacere avere anche lui. La carrozzella è pronta per le ragazze e a te non rincrescerà a fare una passeggiatina fin sul colle, vero, zietta?» «Mi piacerebbe assai, ma siete proprio sicuri che non vi darò noia?» «Oh, no, davvero! Noi ti desideriamo moltissimo e se tu non venissi la festa sarebbe rovinata», protestò Demi con grande slancio. «Mille grazie, signore!» E la zia Jo gli fece una profonda riverenza perché amava lo scherzo non meno di loro. «E ora, signorine care, non bisogna farli aspettare. Mettetevi il cappello e andiamo. Sono impaziente di vedere di che sorpresa si tratta». Mentre mamma Bayer parlava, le tre ragazzine si davano d'attorno e 5 minuti dopo erano sistemate con Teddy nella cesta della biancheria, come chiamavano la carrozzella di vimini trainata da Toby. Demi apriva la marcia e mamma Jo formava la retroguardia scortata da Kit. Vi assicuro che lo spettacolo era grandioso, perché Toby portava un piumino da spolverare rosso sulla testa, 2 bandiere assai fuori del comune sventolavano sulla carrozzella, Kit aveva un fiocco azzurro al collo che lo metteva quasi fuori di sé. Demi portava all'occhiello un mazzolino di denti di leone e mamma Jo, in onore della circostanza, aveva preso il suo curioso ombrello giapponese. Durante tutto il tragitto le ragazzine si dimostrarono eccitatissime e Teddy era così incantato della scarrozzata che lasciava cadere tutti i momenti il cappello. E quando glielo tolsero, minacciò di capitombolare di fuori lui stesso, sentendosi evidentemente in dovere di fare qualcosa per divertire la brigata. Giunti sulla collina, non si vedeva nulla tranne l'erba agitata dal vento, come dicono i racconti delle fate, e le bambine rimasero deluse, ma Demi disse in tono solenne: «Ora scendete e state ferme e vedrete la sorpresa». Dopodiché si ritirò dietro una rupe, al di sopra della quale, durante l'ultima mezz'ora, varie teste avevano ogni tanto fatto capolino. Una breve pausa di trepida attesa, e poi Nat e Tommy sbucarono fuori portando un aquilone per uno che presentarono a ciascuna delle bambine. Ma quando esse levarono grida di gioia, furono fatte tacere dai ragazzi che annunziarono allegramente: «La sorpresa non è tutta qui!» E correndo di nuovo dietro la rupe, tornarono a uscirne con un quarto aquilone di superbe dimensioni, sul quale stava scritto a grandi lettere gialle «Per mamma Bayer». «Abbiamo pensato che ne gradirebbe uno anche lei, perché era in collera con noi e ha preso le parti delle ragazze», gridarono tutti e tre, ridendo come pazzi, perché questa parte della faccenda era evidentemente una sorpresa per mamma Jo. Ella batté le mani e rise con loro, dimostrandosi molto divertita dello scherzo. «Oh, ragazzi, ma questa è una cosa meravigliosa! Di chi è stata l'idea?» chiese, accettando il gigantesco aquilone con la stessa gioia con cui le bambine avevano preso il loro. «Dello zio Fritz, Quando si stava pensando di fabbricarli, ha detto che sarebbe piaciuto anche a te. E allora abbiamo fatto questo così grande, spiegò Demi, incantato dell'ottimo successo del loro complotto. Oh, lo zio Fritz sa quello che mi piace. Sì, questi aquiloni sono splendidi. E l'altro giorno, quando facevate volare i vostri, si desiderava proprio di averne anche noi. Vero, figliole? Per questo ve li abbiamo fatti, gridò Tommy, mettendosi con la testa in terra e le gambe in aria, il che pare fosse per lui il modo migliore di esprimere le sue emozioni. Facciamoli volare, disse la dinamica Nan. Io non lo so fare, cominciava Daisy. Vi insegneremo noi, ben volentieri, gridarono tutti i ragazzi in uno slancio cavalleresco e Demi prese l'aquilone di Daisy, Tommy quello di Nan, mentre Nat riusciva a stento a farsi cedere quello di Bess, piccolo e azzurro. Zietta, se aspetti un minuto faremo volare anche il tuo, disse Demi, conscio che non bisognava di nuovo perdere il suo favore trascurandola. Dio ti benedica, figliolo, io son pratica di queste cose, e del resto ecco qui un ragazzo pronto a lanciarlo per me, aggiunse Mamma Jo, mentre spuntava dietro la rupe il volto ridente del professore. Egli venne subito fuori, lanciò in aria il grande aquilone e Mamma Jo gli corse dietro in perfetto stile sotto gli occhi divertiti dei ragazzi. Uno dopo l'altro, tutti gli aquiloni si sollevarono, librandosi nell'azzurro come allegri uccelli sull'arietta fresca che soffiava costante sul colle. Si divertirono un mondo, correndo e gridando, lanciandoli in alto o facendoli ridiscendere, osservando le buffe acrobazie e sentendoli tirare con forza lo spago come creature vive che cercassero di scappare. Nan pareva impazzita, tanto se la godeva. Daisy trovava il nuovo gioco quasi interessante come le bambole e la piccola Bess era così incantata del suo tilone blu che gli faceva fare solo qualche breve volo, preferendo tenerselo in grembo e osservare le straordinarie pitture di cui l'audace pennello di Tommy l'aveva decorato. Mamma Jo si divertiva molto col suo, che quasi capisse a chi apparteneva, cascava a precipizio quando uno meno se lo aspettava, si impigliava negli alberi, minacciava di finire nel fiume, finché balzò a tale altezza da non apparire più che come un piccolo punto fra le nubi. A poco tutti si sentirono stanchi e, legando gli aquiloni agli alberi e alle siepi, si sedettero a terra per riposare. Meno Papa Bear, che con Teddy a cavalluccio andò a dare un'occhiata alle mucche. Si era mai prima divertita così? Chiese Nat, mentre stavano sdraiati sull'erba rosicchiando steli di menta come un branco di pecore. No, dall'ultima volta che ne feci volare uno molti anni fa, quando ero già una signorina, rispose Mamma Jo. Come mi sarebbe piaciuto conoscerla allora, doveva essere così allegra, disse Nat. Era una gran birichina, mi dispiace dirlo. A me piacciono le ragazze birichine, osservò Tommy guardando Nan, che per ricambiare il complimento gli fece un versaccio. Perché non mi ricordo di te come eri allora, zietta? Ero troppo piccolo? Chiese Demi. Eri certo piccolo, caro. Forse la mia memoria non era ancora spuntata. Il nonno dice che le varie parti del cervello si sviluppano di mano in mano che si cresce, e la parte del mio cervello corrispondente alla memoria non si era ancora sviluppata quando tu eri una bimba. Ecco perché non posso ricordarti, spiegò Demi. Caro, il mio piccolo Socrate, serba questa questione per il nonno, io non ci arrivo, disse Mamma Jo, smorzando così le lucubrazioni del nipote. Già, sarà meglio. Lui se ne intende di queste cose, voi altri no, ribatté Demi, rendendosi conto che gli aquiloni erano più adatti all'intelligenza di quella brigata. Ci racconti dell'ultima volta che ha lanciato un aquilone? Pregò Nat, perché aveva visto che Mamma Jo rideva e quindi pensava che la cosa dovesse essere interessante. Oh, fu una faccenda assai comica, perché ero già una signorina di 15 anni e mi vergognavo che mi vedessero divertirmi a quel gioco. E così lo zio Teddy e io fabbricammo i nostri aquiloni di nascosto e scappammo via per farli volare. Dopo esserci divertiti molto, stavamo riposandoci come noi ora. Quando, che è, che non è, sentiamo delle voci e vediamo una comitiva di signorine e di giovanotti di ritorno da una gita. A te di poco importava, sebbene fossi già un ragazzo troppo grande per giocare con l'aquilone, ma io ero tutta sottosopra, ben sapendo quanto avrebbero riso di me e che non l'avrebbero più finito di parlarne, perché i miei modi da maschiaccio divertivano i conoscenti come quelli di Nan divertono noi. Che fare? bisbigliai a Teddy mentre le voci si avvicinavano sempre più. Sta a vedere, mi rispose lui, e col temperino tagliò gli spaghi. Gli aquiloni volarono via e quelli, quando arrivarono, ci videro intenti a coglier fiori poeticamente. Non sospettarono nulla e noi ridemmo un mondo d'averla scampata. E gli aquiloni? Chiese Daisy. Perduti, irrimediabilmente, ma non me ne importava perché avevo deciso di aspettare ad essere una vecchia signora prima di giocarci di nuovo. E vedete che sono stata di parola? Concluse Mamma Jo, cominciando a tirare lo spago del suo perché era ormai tardi. Dobbiamo già tornare? E io certo, altrimenti resterete senza cena, e questa specie di sorpresa non credo che vi garberebbe, pulcini miei. Non è stata bella la nostra trovata? Chiese Tommy compiaciuto. Splendida, risposero tutti. E sapete perché? Perché i vostri ospiti si sono comportati da persone educate, cercando che tutto andasse bene. Capite che cosa intendo, vero? Sì, signora. Si limitarono a rispondere i ragazzi, lanciandosi però di sottecchi qualche sguardo mortificato, mentre Mogi Mogi si caricavano gli aquiloni sulle spalle e si avviavano verso casa. Pensando a un'altra riunione in cui gli ospiti non si erano comportati a modo e le cose, per colpa loro, erano andate male.